Un altro passo falso, un altro mondo, un altro giorno morto e poi riapparso. L'alba salva Zorba, è uno show in cui sono entrato come comparsa, attore, protagonista, grazie ad una tempesta dopo l'altra. Un'altra cicatrice sul mio corpo, un bambino si sorprende quando si scopre adulto. Recito come posso, sul mio volto il sorriso è un trucco talmente bello che si vede subito che è falso. Silenzio in sala, nessuno ti consola e nemmeno il sipario cala sulla scena. L'unica soluzione è guardare il sole, sperando che non cada. Qualsiasi coglione sbaglia, ma un guerriero è sempre solo sul campo di battaglia. È solo un altro eroe caduto, un altro scontro ti ha spezzato, un cuore lacerato, pompa odio e ira nel cuore d'un dannato. Problemi su problemi, sleri più di ieri, speri in amici sinceri che ti voltano le spalle nei momenti neri. Prega pure i tuoi santi, annega nei rimpianti, ma lo show deve andare avanti. Ma il mondo se ne sbatte, gira per i cazzi suoi, lui se ne sbatte e i tuoi problemi restano tuoi. È uno show interminabile, il palco in bilico, e quello che ti fotta è il tuo stesso equilibrio instabile. Ma il mondo se ne sbatte, gira per i cazzi suoi, se ne sbatte e i tuoi problemi restano tuoi. È uno show interminabile, il palco in bilico, e quello che ti fotte è il tuo stesso equilibrio instabile. È uno show che non finisce, tra esseri striscianti come bisce ci si colpisce, qualcuno si ferisce. La merce che non regge la si sostituisce, non cala il sipario, non c'è primo, secondo atto. Non è prevista pausa nel contratto, contatto tra scena e realtà, il palcoscenico resta la strada. Qualcuno bara, qualcuno la fa fra, una comparsa resta in piedi fino a quando non si stanca. Qualcuno là fuori che ci guarda fisso c'è, non so ancora chi sia, ma so che si diverte, non smette. Lo spettacolo va avanti, non si spegne. Ma il mondo se ne sbatte, gira per i cazzi suoi, lui se ne sbatte e i tuoi problemi restano tuoi. È uno show interminabile, il palco in bilico, e quello che ti fotta è il tuo stesso equilibrio instabile. Ma il mondo se ne sbatte, gira per i cazzi suoi, lui se ne sbatte e i tuoi problemi restano tuoi. È uno show interminabile, il palco in bilico, e quello che ti fotta è il tuo stesso equilibrio instabile.